Euroreportage. Do you speak europeo? 24 lingue ufficiali per l'Europa unita di Silvia Bernardi. Европейци едини в многообразието. Европанец едноцени в разнородосте. Мангфолтихи о самапайде. Митнаке си сосас, юхиненот европласет. Европласет юхреса, мута юксиловина. Дезеропеан... Bulgaro, ceco, croato, estone, finlandese, francese, greco, inglese, irlandese, italiano, lettone, lituano, maltese, olandese, polacco, portoghese, rumeno, slovacco, sloveno, spagnolo, svedese, tedesco, ungherese. Sono le 24 lingue dell'Unione Europea. L'allargamento dell'UE moltiplica le lingue ufficiali e il conseguente lavoro di traduzione che rende il Parlamento Europeo l'unica istituzione al mondo che usa il multilinguismo integrale. Sotto la sola direzione generale dell'interpretazione al Parlamento europeo lavorano circa 2.000 interpreti, a cui si aggiungono 350 interpreti funzionali nelle varie unità linguistiche, un numero destinato a crescere se si considerano tutte le istituzioni europee. L'Europa, in diverse forme e in più parti, difende il multilinguismo e guarda la diversità linguistica come un patrimonio inestimabile di identità culturale ed economica. In fase di finanziamento, presta più attenzione a quei progetti che sviluppano maggiore possibilità di impiego con conoscenza delle lingue e promuove una serie di programmi per lo sviluppo del multilinguismo. Gli europei non meno messa per diversità. Gli europei uniti nella diversità. Le lingue sono così legate a doppio filo con due linee direttrici fondamentali dell'Unione, la mobilità e l'occupazione. La mobilità dei lavoratori in Europa è una realtà che riguarda circa il 2% dei cittadini comunitari in età lavorativa. La difficoltà più grande, che trattiene altri dal cercare nuove possibilità di impiego, è il fatto di non conoscere le lingue. Eppure la libera circolazione dei lavoratori è un vantaggio anche per le economie degli Stati membri, perché consente di conciliare efficacemente le competenze con i posti vacanti nel mercato del lavoro dell'UE, che nonostante la crisi economica, oggi riguarda circa 2 milioni di posti di lavoro non occupati. Allo stesso tempo, il multilinguismo è una caratteristica indispensabile per essere competitivi nel mercato globale. Un'indagine della Commissione europea conferma che quando non dispongono di competenze linguistiche, le imprese perdono affari. Si stima che l'11% delle piccole e medie imprese europee esportatrici perda contatti a causa delle barriere linguistiche. Per Olga Cosmidu, direttore generale dell'interpretazione al Parlamento europeo, il multilinguismo è una ricchezza per lo sviluppo unitario e un valore democratico che si può tradurre in un fattore di crescita economica e sociale. Le 24 langues de l'Europe sont un patrimoine culturel. Le 24 lingue d'Europa sono un patrimonio culturale. Cercare di limitare l'uso di queste lingue per risparmiare soldi è come cercare di fermare l'orologio per risparmiare tempo. È una questione di identità culturale ed è importantissimo capire che queste lingue non sono affatto un fattore che ostacola la costruzione europea. Basta per esempio vedere come negli Stati Uniti, un paese in cui c'era una sola lingua, oggi stiano invece trovando spazio numerose altre lingue. E non penso solo allo spagnolo in California. Un po' ovunque si fanno strada le lingue della gente. Le lingue poi sono anche un fattore di sviluppo economico, non solo per le professioni prettamente linguistiche, la traduzione, l'interpretazione, i sottotitoli, i voice-over dei film, le guide turistiche, il settore alberghiero o la ristorazione. Perché non c'è solo questo. In realtà la mobilità dei medici, degli architetti, degli ingegneri è possibile solo se si conoscono le lingue. Inoltre, con gli spostamenti delle popolazioni, spostamenti che si sono amplificati negli ultimi anni, vuoi per i flussi migratori, vuoi per ragioni di studio o altro, i servizi pubblici e i tribunali in una democrazia devono ora offrire a ciascuno la possibilità di esprimersi nella propria lingua. Nascono quindi nuove professioni, come l'interpretazione per i servizi pubblici, l'interpretazione nel contesto medico, che si affiancano alle professioni tradizionali, come la traduzione letteraria. Penso sia stato proprio il suo compatriota Umberto Eco a dire che la lingua dell'Europa è la traduzione. E credo che questo diventerà sempre più vero, viste le possibilità che si aprono a tutta una serie di professioni. Vediamo peraltro come alcuni giganti dell'informatica stiano cercando di offrire dei servizi di traduzione online, cosa che può essere utile per piccole frasi, ma non per traduzioni che riguardano i tribunali, i servizi pubblici, i servizi europei, i parlamenti e così via. Il Parlamento europeo offre prospettive molto interessanti per i giovani, visto che la prima e anche la seconda generazione di interpreti sono ormai vicine alla pensione. I giovani che conoscono le lingue hanno quindi la possibilità di trovare lavoro nell'Unione Europea. Anche gli europei hanno un atteggiamento molto positivo nei confronti del multilinguismo. Secondo l'Eurobarometro, il 98% dei cittadini europei ritiene che la conoscenza delle lingue straniere sia utile per il futuro dei loro figli. L'88% è dell'avviso che le lingue siano utili per fini personali. Il 72% condivide l'obiettivo dell'UE di far sì che tutti parlino almeno due lingue straniere e il 77% ritiene che si debba dare priorità al miglioramento delle competenze linguistiche. La diversità linguistica è quindi una ricchezza per l'Europa, da cui dipende anche il futuro della democrazia unitaria, che esclude l'idea di adottare una sola lingua ufficiale, l'inglese ad esempio, che sta già diventando una lingua franca parlata e compresa più o meno da tutti. Secondo le statistiche di Eurostat, infatti, il 50% della popolazione europea sa l'inglese o ne ha qualche base, ma soltanto il 20% ne ha conoscenze abbastanza approfondite da poter comprendere la legislazione che li riguarda. Per questo la traduzione in tutte le lingue ufficiali diventa una questione democratica di trasparenza. Impossibile adottare la lingua di un solo paese a discapito degli altri 27. Si darebbe quel popolo un vantaggio smisurato a dispetto degli altri, come sostiene Diego Marani, scrittore italiano che presso la Commissione europea si occupa di politica del multilinguismo, oggi consulente del MIBACT per il semestre di presidenza italiana. La lingua è come la democrazia, non si può fare a meno delle elezioni anche se costano, e allo stesso modo non si può fare a meno delle traduzioni anche se costano, perché da lì passano i nostri diritti. Non è immaginabile che le imprese italiane debbano competere nelle gare internazionali usando l'inglese anziché l'italiano. Questo darebbe un vantaggio smisurato agli anglofoni. La via è la condivisione delle lingue, quindi un uso sempre più vario delle diverse lingue che vivono in una regione, in un territorio, e ogni territorio ha le sue lingue e sono diverse, anche perché questa è sempre stata la nostra storia, non solo europea ma anche italiana. Noi abbiamo sempre parlato diverse lingue e le abbiamo usate a seconda del bisogno. In Italia questo è ancora molto vero, lo vediamo con i dialetti e con le lingue regionali. Questo non chiude la via, anzi assolutamente la spiana all'uso dell'inglese e a un apprendimento più generalizzato, più profondo e più diffuso dell'inglese, perché l'inglese è uno strumento formidabile di comprensione internazionale, quindi sarebbe stupido rinunciare alle opportunità che offre. Semplicemente a un certo punto, a un certo livello, ci deve sempre essere la possibilità della traduzione per garantire a tutti uguali diritti. Tutto questo deve andare però di pari passo con un insegnamento multilingue che sia reale, che sia legato alle esigenze di un luogo. Parlo per esempio della nostra frontiera orientale, sarebbe insensato lì insegnare, che so, l'islandese o il francese, ma lo sloveno e il tedesco sì. Ogni territorio ha le sue esigenze linguistiche e vanno rispettate, e questa è una questione di democrazia e di buonsenso. Gli interpreti e i traduttori delle istituzioni UE svolgono un ruolo essenziale per il funzionamento e lo sviluppo del progetto europeo, permettendo la comunicazione multilingue di una comunità che si esprime in 24 lingue ufficiali e che costa al cittadino 2,2 euro l'anno. Tanto pesa sul bilancio del singolo europeo il servizio di interpretazione e traduzione. Giancarlo Zucchetto, capo degli interpreti italiani al Parlamento europeo, racconta la sua esperienza di interprete al Parlamento. Fare interprete al Parlamento europeo mi dà ogni giorno la possibilità di confrontarmi con altre realtà, con altre culture, con altri modi di vedere il mondo. È un lavoro sicuramente molto impegnativo, spesso stressante, non mancano momenti di tensione, ma è anche un lavoro molto gratificante, un lavoro che mi dà la possibilità di seguire in prima persona il dibattito politico a livello europeo e di partecipare, anche se dietro le quinte, dentro una cabina di simultanea, a questo grande progetto che è l'Unione Europea. Fa poi parte della quotidianità, il multilinguismo non lo si vive solo in riunione quando si interpretano i dibattiti, lo si vive nei corridoi, negli uffici, parlando e interagendo con i colleghi che vengono da tutti i paesi dell'Unione Europea. Le previsioni relative agli organici degli interpreti della Commissione, del Parlamento e della Corte di Giustizia dell'Unione Europea per il prossimo decennio indicano che numerosi interpreti sono arrivati al termine della carriera iniziata negli anni 70 e che dovranno essere sostituiti. Maurizio Fermeglia, rettore dell'Università di Trieste, dove attiva la storica Scuola Superiore di Lingue Moderne per interpreti e traduttori, delinea il futuro dell'industria linguistica. L'obiettivo che ci poniamo come università è quello di riuscire ad insegnare almeno due lingue europee straniere per tutti i nostri studenti. Vedremo se riusciamo nei prossimi anni a raggiungerlo. Questo per noi, per me, per l'amministrazione attuale è fondamentale, in quanto lo riteniamo un pilastro importantissimo per l'internazionalizzazione e per lo sviluppo di un'università basata sulla ricerca che funga come polo di attrazione per studenti e ricercatori stranieri. Identità culturale, democrazia, occupazione, libero scambio, ponte commerciale, arricchimento personale e professionale. Il multilinguismo ha diverse declinazioni che governi locali e centrali dovrebbero avere ben presente nelle politiche da attuare. Delle iniziative politiche nazionali a supporto del multilinguismo si parlerà a Firenze il 25 e 26 settembre in occasione della Giornata Europea delle Lingue, a cui parteciperanno il Ministro dell'Istruzione Stefania Giannini, il Commissario Europeo per l'Istruzione, la Cultura, il Multilinguismo e la Gioventù, Andreulla Vassilliu. Euro Reportage, in collaborazione con Euronet Plus.